io gioco da un strumento e gioco a batto di cala, compreso io vedo una, tu a tre c'è batto. Esatto, infatti, io batto di cala. Ehi, bene funziona Antonio. Ah, a me ho portato sempre, la contessa poco, la contessa io. Sono tu vuoi qualche cosa io muori. Tu vuoi qualche cosa? E non andrà bene. A Puglia andrà bene, però non era un picco tu un preso. E dopo che lo vanno a parlare sangue sotto la scala. E allo Grevia. E allo Grevia. E come mi sa Natale, torni là. Questo. Anzi, sono andato a cosa, può avere il suo computer, ieri sera, ma non mi dà bene, non mi sembra bene. Altra cosa, se non l'ha manca mai dato, ma appena che torno a andare comunque, la vai tu mi lucino direttamente. Allora, se, come è entrata la dico che va alla fotoscala e sono messo due sui vintimi. Questo quant'è il suo segnale? A vedere. Dai. Noi Kimber. Noi Kimber. Ah, certo, che sono a Kimber fatte sono mitoni. Noi Kimber, Giammai. È buono. 5 fatte nemmeno pure, mi calcio pure, Tony. E a me anche lo segno, non sono io, se ne prende conto. Ah, spera. Sono noi 20 Kimber. Va bene, dai. Potevo pensare che Giammai era appena bene. Bene, bene, sono una cannonata, sono in vento. Sì, sono una cannonata, Antonio. Le cannonate sono le pagliette, io Maria, eh. Appena te l'ho fatto il taglio tagliato, ci vuole dare cosa ventolina, hanno giusto e giusto. Se c'è da sopra, ritagliata e affidata. Questo è un travaglio bello fatto, Antonio, anda bene, bene, Antonio. Sì, però... Che caso vuole più lontano, un po' sentire più pago sul rumore? Non me l'ha fatto a me, Maria, l'ha fatto tutto, compreso. La sa mentre una cosa, l'interruttore, compreso. Capite, i due lasciamo portarsi in vista, lì come si intende. E me da pure, magari fai delle non sei stupata. Però a portarsi in vista si intende me da. E che più credo che si intenda. Vabbè. Oh. Ah, siamo tranquillo, dai, siamo bene, dai, o noi, poi sull'altra volta, siamo noi, siamo già troppo, Tony, dai, sì, Puglia, però, se tu hai sapito tutto, magari vi siete di funzionare, o non è sempre che si può fare questa cosa. Come se la ventolina, poi si intende lei. No, non c'è, no, sul rumore solo del suo microfono e basta, va che nulla è. La ventolina va a partire, non fisco. Però non è caldo in nulla, non fisco, va bene me, dai, è un buon bonus parecchio. Che infatti. Così che è tranquillo e pacifico, vai. E infatti, questo me l'hai d'accordo, vale, siccome ti vieni chicca delle aree già... Solo che attaccate la sala patinetta, non dico come ti funziona io, compreso. Torrati, ormai non la... Perché? Fai non so io. Arrazzi questo che ti piglia, che però lo so, che mania che fai tu. Oh. Sei certo, basta. Sotto, vicino, fanno l'ubirecchina a fenne, capito? Boh. Arrazzi questo che si piglia, capito? Boh. Via, le sto sapendo che ti ho chiamato qua, che è pronto a portare, io mi ero fermo qua che mai, ciao tu, mi danno, e ho fatto via che era inteso, e buona carica a tutto, dai. D'accordo, Tony, buona cena allora, e eventualmente niente nucleo, dai, saluto di nuovo, Tony, ciao, buonanotte. Grazie, altrettanto, io mai, ciao. E va, giocati con la pipì, va. Che non crepi, almeno prima o poi ti tocca c'è pure, va, dai, da bravo, che prima o poi sbagli due.